peanuts, all peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console, Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salt Peanuts. Oggi ascolteremo tre musicisti italiani, comunque tre gruppi italiani che hanno avuto e hanno tuttora una risonanza più a livello internazionale, sono ormai approdati su palcoscenici e produzioni soprattutto che guardano a un pubblico più internazionale che non italiano. Non sono certamente gli unici, ormai sono molti musicisti italiani che si possono proporre insieme ad altri a livello internazionale, sia per le qualità che anche per il marketing. In sostanza, poi ormai quello che prima poteva essere inteso anche come con una differenziazione tra il mercato nazionale e quello internazionale, attualmente non è soltanto per un discorso europeo, ma sicuramente da un punto di vista culturale, musicale, tecnico, ha ormai una trasversalità che abbraccia un po' tutti i paesi e i musicisti italiani sicuramente non sfigurano in questi confronti. Alcuni sono ormai diventati dei simboli di richiamo e di produzioni discografiche. Penso per esempio all'etichetta ECM che ormai da diversi anni accoglie nella schiera dei suoi musicisti, diversi musicisti italiani, diverse produzioni di musicisti di formazioni italiane. Il primo disco che ascolteremo è proprio un ECM, un disco uscito per l'etichetta ECM, e di Stefano Bollani, probabilmente il più celebrato e il più conosciuto in Italia, oltre che naturalmente all'estero, ma in Italia è un po' un fenomeno ormai, e infatti un po' le capacità istrioniche di Bollani lo propongono non soltanto come musicista di jazz, non soltanto come un musicista, ma come un entertainer, un artista che interagisce poi col pubblico in maniera più allargata. Nell'ultimo disco uscito è una registrazione dal vivo di un incontro tra due virtuosi del loro strumento. Si tratta di, oltre che di Bollani al pianoforte, di Hamilton de Holanda al mandolino, questi strumenti comunque a corda. Musicista sudamericano, sicuramente con delle qualità, con delle capacità tecniche straordinarie, una grande vena espressiva e una radice profonda nell'ambito più della musica popolare sudamericana. L'incontro è, direi, magico, il risultato è di grande piacere, ecco, di grande piacevolezza. Da un punto di vista musicale non esprimono niente di più di quello che sono, oltretutto, e che ormai si conoscono per tali, per cui non aggiungono niente, però il divertimento all'ascolto è decisamente notevole, per cui lo ascolteremo anche in tre brani. Sono tutti brani non composti da loro, ma sono composizioni classiche, diciamo, brasiliane, soprattutto brasiliane. Ecco, un filo conduttore per tutti i lavori di oggi sono musicisti italiani, sì, ma anche che fanno musiche di altri, quindi in sostanza sono omaggi ad altri mondi musicali. Ascoltiamo questi tre classici di brasiliani interpretati e, come dire, improvvisati da Bollani e Hamilton de Holanda. Allora. Thank you. queste erano l'ultimo brano, tra l'altro famoso, un classico, il Cavaquinho, che è diventato tra l'altro uno dei brani, tra l'altro sembra quasi un gioco di prestigio, eseguito da molti altri, penso anche a Gabriele Mirabassi che si è cimentato con questo divertimento. Naturalmente è un territorio che può essere percorso solo da grandi virtuosi, perché le capacità tecniche che sono necessarie per eseguirlo sono notevoli. Il primo brano che abbiamo ascoltato era O che sera, che è anche il titolo dell'intero album. Ricordo questo il duo Stefano Bollani, Hamilton de Olanda, un lavoro uscito recentemente per l'etichetta tedesca, l'ICM, O che sera. Un altro disco dell'ICM, anche questo recente, è di un quartetto guidato da Maria Pia De Vito, cantante napoletana con una intelligenza musicale che abbraccia poi stili non solo legati al jazz, ma a ogni tipo di espressione musicale. Il progetto era che le era stato chiesto peraltro un paio d'anni fa, quindi ormai ha una sedimentazione questo progetto, era di cercare una rilettura, una interpretazione di brani di Pergolesi, dedicare un concerto e un programma a Pergolesi. E ne è nato appunto un progetto con altri musicisti, altri collaboratori che ha trovato Maria Pia De Vito, e sono François Couturier, pianoforte, tra l'altro decisamente intelligente come capacità anche di concertazione e di composizione. Anya Lechner al violoncello, bravissima, e Michele Rabbia alle percussioni, elettroniche. Il risultato è, direi, positivo, pur avendo una certa difficoltà nel coniugare alcune che sono composizioni del quartetto con invece interpretazioni piuttosto classiche dei brani di Pergolesi, di alcuni brani di Pergolesi. E Maria Pia De Vito ha tra l'altro anche tradotto in napoletano alcune di queste composizioni di Pergolesi. E il risultato comunque in diversi momenti è decisamente intenso, molto, molto lirico, molto espressivo. Ascoltiamo un brano che è composto proprio da una prima parte composta da Couturier e nella seconda parte presa direttamente da Pergolesi. Thank you. Questo era il Pergolese, uno degli ultimi dischi prodotti dall'ECM, un quartetto guidato da Maria Pia De Vito con François Couturier al pianoforte, Anja Lechner al violoncello e Michele Rabbia alle percussioni, che si cimentano in una reinterpretazione, una rilettura di alcuni brani di Pergolesi, di Gian Battista Pergolesi. Il risultato è, come dire, con momenti di luce e con comunque una percezione di atmosfera che è sempre quella che viene a caratterizzare l'etichetta ECM. L'ultimo disco che ascolteremo, dal quale ascolteremo un paio di brani per oggi, è un lavoro di Gianluca Petrella, che quest'anno ha proposto una rilettura, un omaggio alle musiche di Nino Rota. Questo non è certamente una cosa originale farlo, nel senso che ormai sono più quelli che l'hanno fatto, l'omaggio a Rota, più che gli altri. Però è la qualità dell'interpretazione che diventa interessante. Il risultato è eccellente, a mio avviso. Petrella si fa accompagnare da musicisti di qualità come Beppe Scardino al baritono, molto incisivo, Giovanni Guidi, ormai un collaboratore frequente al pianoforte, John Reimer al basso, Cristiano Calcagnile alle percussioni, Andrea Sartori al varie ance, John De Leo alla voce. Poi in alcuni brani, come quelli poi che ascolteremo, come ospite ricorava la tromba e Dino Piana al trombone, quindi una vecchia gloria Dino Piana, non che sia giovane ricorava ormai. Anche i brani che sono stati scelti, i momenti delle composizioni di Nino Rota, presi dalle musiche per i film di Fellini, sono nove e sono anche, come dire, brani particolari, non tra quelli che normalmente si ascoltano più frequentemente. Quelli che ascolteremo adesso di seguito sono presi da Il Bidone, uno dei vecchi, uno dei primi film di Fellini, e poi Roma. Il Bidone è anche il titolo dell'album. Thank you. moderno, il jazz moderno, il jazz moderno. Jazz moderno. Il jazz moderno. Il jazz moderno. Il jazz moderno. I like it. Yeah, it's cool, cool, cool, man, cool. Thank you. Questo era Gianluca Petrella in una produzione, un omaggio a Nino Rota, il disco intitolato Il Bidone, è un disco uscito per l'etichetta Spacebone Records, con una formazione peraltro notevole, ma soprattutto c'è una capacità di arrangiamento, una rilettura, un omaggio decisamente ben riuscito, ben equilibrato, originale. Per le musiche di Nino Rota, non la tradiscono e ne danno una rilettura intensa, ben riuscita. Questo era l'ultimo ascolto, ci possiamo salutare. Vi ricordo che la trasmissione, l'intera trasmissione, ma anche i dati relativi ai dischi che abbiamo ascoltato, lo potete trovare sul nostro sito radiocittafujiko.it nella sezione playlist. Salve a tutti, alla prossima. Salt peanuts. Salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts. Salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo.